Racconta, fratello, qual è il tuo peccato? Dimmi con chi, quante volte sei stato? Hai detto bugie, hai fatto la spia, orsù, perché invece se un frate sei? Cosa dici, fratello? Tu hai ammazzato, nel quinto ricorda, ti è stato proibito, non posso salvarti dal fuoco eterno, hai solo un biglietto per l'inferno. poi ti terrà per mano e ti darà la forza di andare avanti. marzo, ero contro il sole, mi ha parlato senza dir parole, erano grandi gli occhi. Aria azzurra e nubi colorate erano il suo corpo ed ali di farfalla ed altre cose che non so. Attraverso boschi di cascate bianche sono scivolato in campo ancora sveglio, potrò spiegare a tutti nel mio tempo. piano, l'aria tersa e azzurra, ma il fuoco di una luce sui suoi capelli biondi. È lei che aspetta un figlio, la pioggia della luna e la morte è qua. L'ho intravista nel mio tempo e la vita è qua. L'ho intravista nel mio tempo. Saper chi sei. Thank you. Thank you.